Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Buonasera da Rockway, buonasera ai nostri ascoltatori e buonasera soprattutto al gruppo che viene stasera da Bassano, i Vindicators. Buonasera Vindicators. Buonasera. Avete fatto buon viaggio da Bassano? Penso di sì, eh. Sì. Il rock porta sempre a fare un buon viaggio. Assolutamente. Stasera abbiamo due registi, Flavio Bilato e Marco Borgato, che adesso prenderà il posto di Flavio Bilato. Esclusivamente per noi, spero. Esclusivamente per voi, una novità assoluta. Benissimo, il progetto Vindicators è un progetto molto interessante che non è nato oggi, ma è nato un po' di anni fa, vero Carlo? Sì, molti anni fa. Sì, come si è sviluppato? Quasi 25 anni fa. Come è partito? Come si è sviluppato praticamente? Beh, si è sviluppato. I Vindicators sono in pratica una distrazione di un altro gruppo. È una distrazione, hai detto una cosa giusta, una distrazione, possiamo dire una costola di un altro gruppo. Esattamente. Una costola. Era quell'altro gruppo molto importante, molto famoso, noi che abbiamo una certa età. Esatto, si chiamava Frigider Tango. Frigider Tango, ragazzi, la new wave dei Frigider Tango, una via un po' particolare tra il prog, tra il rock and roll, tra il rock duro, tra il blues, un po' di tutto c'era. Assolutamente, avevamo un background pieno di cose e le abbiamo sviluppate proprio in quegli anni, tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Esattamente, è proprio il culmine, il centro. Esatto, poi un po' stanchi. Poi stanchi di tanto essere, suonare dal vivo. E di essere molto introversi. Esattamente. Detto, divertiamoci nel senso pieno della parola. E come appunto distrazione abbiamo messo in piedi praticamente quasi la totalità della band, ha messo in piedi un gruppo satellite chiamato Vindicator. Un po' più rock and roll di prendere di Frigida. Assolutamente. Tango. Assolutamente rock and roll. Assolutamente. Ritorno all'origine. Il ritorno alle origini, hai detto giustamente. Sì, Carlo, visto che ci siamo, presentiamo questi ragazzi che sono qua stasera. Qui in studio abbiamo sempre ragazzi. Sempre musicalmente ragazzi. Siamo sempre ragazzi. Sì. Abbiamo una gran parte del gruppo che sta in una sola persona. Una sola persona. Che è un grosso. Dai Colle. È proprio il più grosso del gruppo. Il contenitore musicale. Il contenitore musicale del gruppo. Poi partendo dalla formazione originale, perché i Vindicators hanno avuto comunque un avvicendamento certo. Molto vario, essendo proprio i Frigider Tango di base, oltre a Steve Dal Colle c'era Mark Brenda alle tastiere, che era rimasto comunque oggi lontano, molto con i Vindicators, lontano, però molto vicino. Benissimo. Jean-Marie Le Baptiste, questi sono i nomi di battaglia, che era il batterista che poi la macchina ritmica, esatto, che registrò il primo disco di Vindicators assieme a Brenda Dal Colle, il sottoscritto, e Jean Gin Tonic, che era un nuovo bassista preso appositamente per la band. Poi molto velocemente l'anno dopo la parte ritmica se ne va, cioè Le Baptiste e Jean Gin Tonic, e arrivano il qui presente Victor Ferri, che ha un bellissimo basso. Fammi vedere il basso, che è stasera bellissimo. Il Fender ha sempre un bellissimo basso in tutti i sensi. Vai. Volevamo rinfrescare il gruppo, ringiovanirlo e abbiamo trovato lui. Abbiamo chiamato Nando, che è un'esperienza molto lunga. E Mark Charles, più conosciuto come Marco Carlesso, che suona con una valanga di gruppi per avere una certezza, diciamo, ritmica. C'era anche prima, perché il batterista di prima aveva altre caratteristiche molto belle, fantasia, eccetera, eccetera. Questo era un altro tipo di batterista. Comunque i Vindicators continuano, registrano il secondo album, Roots Revolution. Dobbiamo dire una cosa, i primi due album, gli album ufficiali, sono degli album introvabili o quasi. Sì, no, come quasi benissimo. Tutti i dischi. Tu sei un esperto, sì. Di discografie, sì, sconosciute. Infatti, sconosciute, proprio totalmente. O totalmente sconosciute. Cioè, un secondo album per la CGD avete fatto. Eh sì. Come i Vindicators. Sì. C'era stato un interessamento di questa mezzo. Sì, no, lo chiedo a te. Le cronache parlano di un secondo album per la CGD, sì, è vero Carlo? C'è stato un interessamento. Interessamento. E abbiamo restato questo secondo disco che alla fine è stato venduto e finito. Immediatamente o quasi. Il gruppo dopo poco si è sciolto, perciò non c'è stato tempo di stamparlo, perciò insomma comunque è uscito e è stato ascoltato. Però questo Greatest Hits, un Greatest Hits è un po' strano, un po' particolare, un Greatest Hits non a norma, i Rizzitti sono una raccolta di successi. Questa non è una raccolta di successi, sono le cose che avete fatto all'epoca, riprese a vostro piacimento, certo, con determinati inediti, un po' di live, cosa molto interessante. Quindi giustamente un critico ha detto, non è una raccolta, è una riscoperta della band. Assolutamente, il titolo Greatest Hits è puramente ironico, ovviamente. Esattamente, sì, perché... anche perché non esistendo in CD, di conseguenza è nata questa roba qua apposta per i giovani d'oggi. Esattamente, beh, siamo tutti giovani, cosa dici? Sì, no, i giovani d'oggi, quelli che non compravano i vinili anche perché non ce li hanno più le puntine. Ma a casa adesso però sono sì, ritornati un pochettino, i giovani stanno tornando indietro come abbiamo fatto noi 20 anni fa, siamo tornati indietro. A proposito di giovani, abbiamo uno qua giovanissimo, è giovanissimo, grande anche. È un gran produttore, un gran giovane produttore. Volevo infatti concludere chiudere la formazione con questo new entry. Questa new entry, importante new entry, assolutamente, perché ci siamo ringiovaniti, dai. Cioè, diciamo che io personalmente mi posso finalmente rilassare. Perché adesso ho una bella base ritmica con un gran musicista che ha fatto. Sì, non diamogli troppo importanza, troppo carico. Se la domanda che hai più, dopo il cachet aumenta. E noi gli diamo tante pacche. Beppe Piol, non serve neanche presentarlo, insomma, una figura che ha lavorato per anni nella musica. Anche qui stesso, anche qua. Assieme a Steve, anche Steve e Piol è venuto qua a trovarci un po' di tempo fa. Quindi suonava. Live è una cosa meravigliosa. I musicisti girano, ma qualche volta, spesso e volentieri, ritornano qua, è una cosa positiva. Assolutamente. Altra caratteristica fondamentale dei Vindicators è l'aggiunta di fiati. Sì, esattamente. E qui viene fuori il nome di Paul Milani, che fu anche sassofonista dei Frigider Tango ed è elemento portante. Sì, è una caratteristica fondamentale dei Vindicators, l'uso degli ottoni, dei fiati. Questi fiati che sembrano proprio rock and roll, fiati da rock and roll. E soprattutto da rhythm and blues. C'è una componente rhythm and blues molto importante nei Vindicators. È fondamentale. Sì. Esatto. Adesso, visto che abbiamo dato una descrizione bella fatta da Carlo dell'andamento, del progetto, come si è sviluppato i Vindicators, che sono arrivati adesso, nel 2012, a presentare questo Greatest Hits, che non è come abbiamo detto, una raccolta, è una riscoperta, ritrovare determinate sonorità. Cominciamo col primo pezzo che abbiamo scelto da scaletta, da disco, e poi parleremo dal vivo. Marco, che numero è il numero uno? Abbiamo scelto il pezzo numero uno. Ciao, adesso ce lo presenti, dai. Che è, presumo, Better Lady. Better Lady, sì. Esatto, che infatti ha un titolo abbastanza significante. Sì, la traccia numero 8, Better Lady, mi pare. Sì, sul disco. Che è Meglio Tardi Che Mai. Meglio tardi. E questo dice lunga su tutto il meglio progetto. Tardi che mai, cioè bisogna sempre continuare. Esatto. Anche se siamo arrivati dopo, però non vuol dire che siamo arrivati dopo, siamo indietro. Assolutamente no. Siamo avanti, sempre avanti. Sentiamo il pezzo, ok? Assolutamente. Rock Wave, l'onda del rock. Sì, faceva il coretto, hai sentito Marco, faceva il coretto. Come non hai mai ti potremmo utilizzare come vocalist, cosa come dici, jingle, Steve? Come jingle, carriera fa jingle. Ascoltaci. Allora, una cosa molto interessante, Steve mi parlava dell'organo che è stato utilizzato. Tanto salutiamo il tastierista che adesso è a Miami, in Florida. Ah, sì. Mark, ciao Mark. Facciamo così con le manine. Ciao Marco. Ci ascolta dalla Florida. Allora, l'uso dell'organo particolare, Steve, avete voluto assolutamente quel suono là, di quello strumento abbiamo là. Abbiamo voluto, epocale. È una parola grande. Ha voluto. Marco ha voluto. Sì, Marco ha voluto. Marco ha detto: mi voglio Lemond. Esattamente. Senza Lemond non sono. È perfetto. Allora, Lemond dell'epoca. Torgel Lemond, a Mark Brand va Torgel Lemond. 500.000 al tempo si costava. 500.000 lire ai tempi. All'epoca. 250 euro. Però si sente. Certo, si sente. Assolutamente. Tu dicevi che è una cosa trascinante. È una trascinante, assolutamente. È una fatica boia. Ah, no, pensava boia, sì. Un casino. L'emo era una roba. Da trasportare un Emond era un po' particolare. Quanto pesa un Emond? De più. Ma soprattutto il trasporto è stato eccezionale, perché insomma eravamo piccoli, giovani, squattrinati come adesso. Però pesava una cifra. Costava una cifra. Però aveva un suono che era una cifra. Non sei contento se del suono? Se fosse stato se per l'Emo, sto pezzo qua sarebbe stato proprio una roba. Praticamente, quindi Marco ha voluto quel pezzo là. Tu dicevi, Carlo, che spesso e volentieri, quando c'è il pubblico che di un certo tenore, aprite i concerti con questo pezzo. Soprattutto. Sì, perché è un pezzo di impatto immediato. 1988. Scritto nell'88, pubblicato nell'89. Nel secondo album, praticamente. Assolutamente, Roots Revolution. Il pezzo d'apertura di Roots Revolution. Quindi è un pezzo che doveva, quando si fa un pezzo per l'apertura di un album, doveva essere un pezzo di un significativo al 100%. L'idea come è nata, ti ricordi? La costruzione del pezzo, no. È uno di quelle parte di pezzi nati in modo molto canonico in studio, aggiungendo cose, e proprio un lavoro di squadra, questo in particolare. Un lavoro di squadra. E c'è un discorso molto legato a un gruppo americano che voi amate molto, il vostro punto di riferimento. Marco è che qui in regia ama anche lui molto questo genere di musica, questo gruppo soprattutto. Citami questo gruppo, Carlo. Questo gruppo sono i Fleshtones, perché che ha avuto un rapporto anche fisico con voi, cioè ha partecipato anche con voi. Sì, abbiamo un rapporto d'amicizia, vero e proprio. E con loro. E voi con loro, esatto. Chiaramente. No, loro sono venuti in tour in Italia. Come è nato questo collegamento, questo feeling musicale? Cioè, per noi era un gruppo che in quel momento, a metà degli anni Ottanta, spolverava i 60s cosiddetti. Esattamente. Nel modo, secondo noi, più vero. Più vero. Cioè, più accottato. Più tappatos, più esattamente, forte. Che è quello che noi cercavamo. Certamente. Infatti i Fleshtones, per loro usciva una fanzine dell'epoca, uscivano dedicata a loro, che si chiamava The Vindicators. Perfetto. Ecco da dove abbiamo preso il nome. Il nome vostro. Visto che inizialmente, giusto per divertirci, facevamo alcune cover di Fleshtones. Dei Fleshtones. Quindi l'amicizia si è consolidata. Poi sono venuti in tournée e abbiamo suonato con loro dal vivo. E alla fine del concerto, alle 2 di notte, li abbiamo portati in studio e fino alle 7 del mattino abbiamo registrato qualsiasi cosa. Uno dei pezzi che abbiamo registrato è finito nel primo disco, che è All Around the World, che è un pezzo di Titus Turner, è una cover abbastanza sconosciuta, e che loro facevano qualche volta, noi l'abbiamo completamente rivisitata e loro ci hanno suonato e ci hanno cantato sopra. Sì, Fleshtones era un gruppo decisamente forte, ma era molto raffinato anche nella loro forza, secondo te. Sì. Cosa dici? Secondo noi sì, anche sì. Perché insomma... Cosa dici, Steve? Sei d'accordo anche te? Dal sound da dove venivamo noi, sì, avevamo comunque dei parametri di classe, come dire, e i Fleshtones, secondo me, insomma, avevano un qualcosa in più. Sì, erano esplosivi, però avevano la classe di Roxy Music come class, come stile di movimenti, cioè, facevano le cose pensate. Cioè, era un bel. Erano istintivi, sì, ma pensavano. Un istintivo divertito. Esatto. Cioè, era un istintivo. Cioè, le cose venivano pensate, venivano fatte, distinto, di conseguenza, io, cazzo, che bella sta roba, continuiamo a farla. Certo, quindi decisamente. Benissimo, adesso, visto che abbiamo scaldato l'ambiente, siamo tutti sudati, no? Perché è bello così, perché la musica dà anche calore. Cominciamo a suonare dal vivo. con cosa cominciamo questa scaletta che arriverà fino alle 24 ed oltre? Cosa dici? Beh, a questo punto io direi di fare il pezzo seguente il primo pezzo dell'altra facciata dell'album, secondo disco che è ancora un pezzo, e cioè il vinile era, ricordiamo che era in vinile, assolutamente in vinile, esatto, che è Go Baby Go. Benissimo. Che è un altro pezzo classico, insomma, rhythm and blues e rock and roll mescolati assieme. Bene, potete andare. Possiamo andare? Potete andare. Go baby go, never stop to go. Let me tell you about the burning love. Go baby go, never stop to go. Let me tell you about the burning love. Come on. Go baby go, never stop to go. Let me tell you about the burning love. So let me take you in my hand, yes I'm sure you'll understand. Getting on this beat a fever long, long time. When I've been up for 3 days, getting to the run of night. For the answer is an out in sight. Everybody want a chance, maybe think it's never come. But nobody knows it's now. Every time I see my face, go to myself into a race. Come on the best I speak to come. Think I'd like to go back home. Take the bread between the shows. When I look to the window and out on the streets, I feel again, isn't it my shoes? Go baby go, never stop to go. Let me tell about the burning love. Go baby go, never stop to go. Let me tell about the burning love. Shake it! Like to go back home, take the break between the shows. When I look to the windows and out on the streets, I feel again hitting in my shoes. Non è finito, bene, bene. No, ok. Perché? Guardami qua. Hey! Bene, bravissimi, proprio live, assolutamente live, in uno studio, ma come se fosse un palco, un sacco di gente, siete sudati, siamo sudati, ma cosa vuol dire? È bello così, bellissimo. Ok, benissimo, fammelo, rifai quella solo che avevi fatto un momento, alla messicana quasi. Vedi, dai. Vedi che serve, no, questo. Bravissimo. Per fortuna c'è lui. Questo è. Però, dimmi, vai davanti al microfono, sì. Noi, Maurizio, dipendiamo... dal punto di vista live dalle mosse di Carlo Casale. Quindi se noi non lo vediamo saltare, non lo vediamo alzare il braccio, non lo vediamo battere le mani, non sappiamo. Adesso è seduto, adesso è seduto. Non lo vediamo proprio come adesso. Adesso è seduto. Non sappiamo cosa fare, quindi se manca questo, manca un po'. Però hai utilizzato anche il tamburello, vero Carlo? Sì, molto leggermente, perché in radio crea molto confusione. E questo era un pezzo esplosivo proprio, deciso. Qui l'avete suonato acustico, però un acustico un po' esplosivo, un po' da band live, assolutamente. Voi siete una band live, c'è poco da fare. Infatti. Questa è la vostra. Abbiamo incluso un CD live, perché appunto, quella è la dimensione esatta. Insomma. L'idea, com'è stata l'idea di fare questo Greatest? Come è nata? Come si è sviluppata? Si è sviluppata che era... Le richieste erano tante. Come giustamente Steve diceva, era un peccato avere due dischi che le nuove generazioni non avevano mai da avere. Esattamente. e perciò dovevamo metterli su CD. Scusa, dimmi, neanche io ce l'avevo. Non avevi anche te? Ma le avevi te, Carlo? Beh, certo. Io sono un collezionista. Sono un collezionista. Tu sei un collezionista, un grande collezionista di dischi, Steve. No, di chitarre. Anche di chitarre, ma anche di dischi, dai. Vabbè, sì, cioè, avevo qualcosa. Adesso li ha tutti lui. Li ha tutti lui, perciò vado a casa sua. Perfetto. Quindi avevate. È stata una buona idea. Poi, grazie a un'etichetta, anche vi ha dato una mano. Sì, sì, assolutamente. C'è stata la CGD, stiamo parlando della CGD e... no l'etichetta di Greatest Hits, del Greatest Hits, del disco praticamente, del nuovo, quello che è uscito adesso è la Go Down Records, esatto, volevo citare quella, con distribuzione tra l'altro global, insomma buona sì. E Live è praticamente un disco in omaggio che abbiamo voluto in e la scaletta l'avete scelta voi dei pezzi da mettere nei negri? Sei stata te? Lui colpa. Assoluta, sei tutto te. Diciamo che il lavoro discografico me l'hai fatto tutto io. Noi suoniamo, lui fa dischi. Sai cosa? Ci vuole anche quello. Diciamo che l'archivio Live dei Vindicato. Marco sta facendo la ripresa. Bravissimo, Marco sta facendo la ripresa. Dimmi. L'archivio Live di Vindicator, che parliamo di più di 100 cassette live registrate, lo tengo io da anni e da lì ho estratto quello che poteva essere il meglio. In realtà potrebbero esserci altri 5-6 dischi dal vivo. Nel 92 avete concluso con 102 concerti, poi avete ripreso nel 2011 102 concerti, quindi avete suonato dappertutto, in qualsiasi momento, in qualsiasi ora, si può dire. Assolutamente sì, in qualsiasi situazione. Raccontami una strana. La bellezza dei Vindicators è che avendo una situazione, come dire, più elastica. Esatto, molto libera, possiamo dire. Possono suonare in qualsiasi situazione e avere una scaletta adatta da adattare a qualsiasi situazione. Quindi Frigidaire Tango era un po' più... non aveva una scaletta così libera rispetto a voi. Assolutamente. Dimmi Steve. Erano un po' più fighetti. Tutto bello, tutto pulito, tutto, sai. Invece questi qua possono suonare a casa tua. Cioè, certo. Possiamo suonare a qualsiasi posto, dove vuoi. Non c'è problema, no. Assolutamente. Quindi, non ci facciamo problemi perché appunto è rock and roll. Concerti ne abbiamo fatto. Cioè, sì. Si suona, ma il rock and roll si suona dappertutto, assolutamente, anche con una chitarra acustica, anche scordata spesso e volentieri. Infatti. Perché il punk nasce anche quello. Avete anche delle reminiscenze punk, voi. Non siete punk, assolutamente, per qualche pezzo punk l'età. C'è. No, io ho una foto con la cresta. Io ho letto qualche recensione. Sì, hanno parlato di qualche pezzo punk, sì. Ma in effetti noi... il nucleo di questo gruppo, ma Frigidaire non erano punk, no, però io e Stefano ci siamo incontrati nell'estate del 77, che quindi è il momento cruciale del punk, e abbiamo il primo gruppo si chiamava Outkids ed eravamo assolutamente punk. Abbiamo fatto i primi 4-5 concerti in quel momento contemporaneo con i nostri, no? Gimme Lemon Baby, però Lemon Baby. Insomma, 77 è l'anno del Talking Heads, famoso disco. 77 ha aperto una strada. Beh, era un momento dove c'era veramente l'imbarazzo della scelta musicalmente, e non lo sapevamo rispetto adesso. Sì, è un po' diverso adesso. Cosa ne pensi della situazione odierna, Carlo? Steve, anche gli altri possono intervenire, assolutamente. Beh, se ragiono da cinquantenne dovrei dire non c'è più musica, non c'è più niente, la musica di una volta. Però è un modo di fare, secondo me, che non funziona, nel senso che secondo me musica ce ne sarà sempre, bisognerebbe andarcela a cercare. Credo che invecchiando si tralasci il fatto di ascoltare musica perché si ha meno tempo, si hanno altre cose, la famiglia, il lavoro, qua e là, e poi si critica il presente, secondo me è sbagliato. Devo però dire, visto che ho fatto questa premessa, che dal 2000 ad oggi, sono passati 12 anni, io non ricordo un disco che possa venire ricordato nel futuro. Marco, che ne pensi di questa... Forse un disco, scusa, magari un gruppo, un movimento, un gruppo, il disco magari ci potrebbe anche essere. Che movimento ti ricordi, Steve? No, nel 77 c'era un movimento, nel 90 c'era altro movimento, nel 2000 non esiste niente, cioè... Adesso vuole parlare il produttore, dai. Il giovane produttore invece la pensa giustamente di produttore, perché è un giovane produttore, soprattutto può prendere il microfono il produttore. Questo qua. Giovane produttore. Vai. Allora, ero giovane 15 anni fa, quindi non è più vero che sono giovane, ma sono d'accordo con Carlo, fondamentalmente perché non mi ricordo. Cioè, la mia famiglia, insomma, è cosa recente, quindi non ho un vissuto che mi ha allontanato dalla musica per tanto tempo, quindi ho ascoltato dischi nuovi, tutto quello che usciva, ero informato fino a 3-4 anni fa. non c'è granché. Cioè, mia figlia ascolterà fra 20 anni dei suoni che io ho già sentito, mentre io ho ascoltato dei suoni che mia madre non ha mai sentito. Certo. I Prodigy per mia mamma, confrontati con Little Tony, era tutt'altra cosa. Mia figlia ascolterà non so chi, che suonerà come qualcosa che ho già sentito. Quindi le novità in senso assoluto non ci sono. È difficile perché i suoni sono stati esplorati lungo il largo. Totalmente. Negli anni 80 sentivi un flanger, sembrava magia, adesso senti qualsiasi cosa. Proprio adesso c'è anche il discorso che il computer ha praticamente azzerato possiamo dire la creatività o no? Sei d'accordo? No, se uno è creativo è creativo lo stesso, cioè, anche ha facilitato magari quelli che avevano idee e ha fatto emergere Carlo, vuol dire una cosa? Dimmi. È un mezzo, ma non è. Certo, potete parlare. Sì, me. Poi c'è anche il bassista che vuole parlare. Come Obama, Carlo. E la moglie di Obama. Dimmi. No, va detta una cosa per quanto riguarda il computer. Meglio uno, dai. Meglio uno. Esattamente. Una cosa importante da dire per quanto riguarda il computer, la differenza secondo me sta tutta qua. Una volta i suoni bisognava crearli, adesso li scegli. Questa è la differenza. Bello, hai detto una cosa giusta. Li scegli. Perciò c'è un lavoro diverso. C'è un lavoro di scelta. Scelgo quel suono, sono bravo a scegliere quel suono, ma non lo faccio io. Perché i suoni ci sono già, c'è già tutto. Tu apri un computer e fai un disco. Qualcuno dice non fai più fatica. Puoi anche non saper suonare, fai un disco. Non sto dicendo che è una cosa negativa. Questa è la vera differenza, insomma, sostanziale. Certo. Poi il fatto che ci sia meno creatività, per concludere, deriva anche da un fattore sociale. Io spero che, visto la situazione disastrosa in cui siamo globalmente, forse da qui nasca qualcosa, anche musicalmente, lo spero. Come è stato nella fine degli anni 70 per il punk. Certo, il punk perché le cose nascono comunque da un bisogno. Anche la musica nasce da un bisogno. Certo. Infatti, per chiudere, proprio negli anni 80 c'era ben poco, perché era stato raggiunto tutto, quello che motivo. Benissimo, adesso andiamo un altro pezzo da scaletta. Marco, che traccia è questa? Da numero 3, benissimo. Ti ricordi il titolo? The Hit. Questo è un pezzo molto, secondo me, uno dei pezzi più interessanti, perché ha una costruzione che è proprio derivante dai Freezer Tango come complessità. E devo dire che questo è uno dei lavori dove si vede la simbiosi perfetta tra Steve e Mark, che l'hanno scritta musicalmente. Vabbè, io poi ci ho messo il testo e la melodia del cantato, ma la canzone dà proprio un'idea di come loro componevano i pezzi, il pezzo. La sentiamo, ok? Rock Wave, l'onda del rock. No lies, no cries, and wait for me in every other life. And turn me up, and turn me down, and this my world not falling down. You gotta stop, I got a will to love. You gotta move it, I never lose the will. You gotta listen till the break of day. Feeling every other word. And turn me up and turn me down. And this one word not falling down. You gotta stop. I gotta wait too long. You gotta move it. I never lose a will. You gotta listen until the break of day. But only now. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Quanti cambi di ritmo, ciao, Steve? Ma manca il respiro. Manca il respiro. Quanti cambi di ritmo, una roba incredibile. Un pezzo completo. No, cioè, ma... diceva il nostro bassista, è semplice, sì, ma è semplice da. Semplice voi un paio di... lo fate, però, uno che lo sente da fuori, siete un sacco di cambi. Ci sono tre canzoni messe assieme. No, ma soprattutto, fa suonare questa roba qua a un jazzista, a un pianista classico che suona la tromba e un sassofonista che fa. Cioè, fa altre cose? Fa altre cose. È abbastanza complicato fare che. Per un jazzista c'è una cazzata da un jazzista, invece e dopo alla fine il risultato, insomma, però comunque è complicatissima, cioè, chi se ne intende un po' ascolta un attimo chitarre, fiati, organi, cantato, voci, se c'è. È molto molto complicato, è un po' sovrarrangiata, sì, un po' non, è pezzo, più finita. Cioè. E mi dicevi, Charlie, che ci sono altri gli ospiti, ci sono quello che suona la tromba e il trombone, Joe Calamosca e Hans Meyer. John Mayer. Proprio i due che, stavo appunto annunciando, cioè Joe Calamosca e John, cioè due, John Mayer. Due jazzisti praticamente. Fine jazzisti che poi si sono buttati proprio su questo pezzo assolutamente rhythm and blues. Esatto. Ma un rhythm and blues, non dico classico, è un rhythm and blues atipico. In alcuni momenti, ma infatti io credo che la caratteristica sia quella dei Vindicators, esatto, è che un gruppo che deriva da un tipo di musica di partenza e ne fa un altro, se si ha un po' di stile e personalità, si porta dietro delle cose che sicuramente sconvenzionano quello che è poi il rhythm blues classico. Certo, tu hai giustamente appena detto è un rhythm blues, ma è molto strano, certo, perché facevamo punk 10 anni prima, poi new wave, poi è chiaro che c'è un'influenza di vari tipi di musica. Quindi possiamo dire che Vindicators si sono giustamente ma progressivamente allontanati dall'immagine di Frigida del Tango per creare un'immagine assolutamente libera da ogni convenzione, libera al 100%, live al 100%, musicalmente libera, sì. Esattamente, e questa era la vostra qualità. Infatti, la vostra caratteristica, cosa dici, Steve? Il nostro non sei d'accordo? No, stavo pensando un'altra cosa. Dimmi, cioè, metti davanti al microfono. Volevo fare una domanda a Carlo. Quel pezzo fatto con fatto con l'organo, che c'è sul disco. C'è sul disco. Un pezzo. No, sto ascoltando quello che stava dicendo. Mi è venuto in mente un pezzo che non c'entra niente con rock and roll. Non c'entra niente con rock and roll. Devils in Heaven. C'è nel disco. C'è nel disco. Certamente. Ecco, quello giustamente. Che non c'è proprio. È partito in modo diverso. È partito che era New Wave. È proprio un pezzo New Wave. A un certo punto. È finito rock and roll. Basta la New Wave. E veniva fuori una roba. Cioè, proprio capisci che dalla New Wave sono passati al rock and roll. Poi ho detto basta. In un brano solo. Così. Mi stava venendo in mente questa cosa qua. Bene. Dobbiamo ringraziare Alberto Pisco, il nostro direttore artistico, che vi ha voluto fortissimamente qua stasera. Lo ringraziamo. E vi sta sentendo sicuramente. È l'ora di un altro pezzo dal vivo, caro Carlo. È tutta la band. Adesso ci rilassiamo per un po'. Sì, ci rilassiamo, dai. Va bene. Ci rilassiamo con. E ci mettiamo anche i riverberi. Sì, i riverberi fanno bene alla salute. Sì. Sono molto positivi, sì, quando si canta. Ci fanno meno fatica. Il pezzo come si intitola, Steve? Allora, il pezzo. No, io non lo so il titolo. Il titolo, Carlo lo dice. Sì. Il pezzo si chiama Don't Kill Time. Dico due cose su questo pezzo perché anche questo ha un suo perché. È stato scritto nel 1980 ed che... era di fatto uno scarto del primo disco dei Frigidaire Club. Esattamente, è un pezzo che abbiamo scelto come disco proposta da questo Greatest Hits dei Vindicators, noi della redazione, sia io ed Alberto. Ci è piaciuto moltissimo questa ballada, possiamo dire una ballada? È una ballada. È stato scritto nell'80 per il disco dei Frigidaire Tango e poi scartato perché lo ritenevamo un pezzo troppo leggero, troppo ballato. Esatto. Dopo 10 anni l'abbiamo riesumato e ne abbiamo fatto la versione benissima, una versione ottima secondo me. Direi. Tried to stop it many times. You understand that it's precious. It has only one life. It's a one-way ticket. But how many times must you kill it? How many times don't you bother and you let and run on defenses without using July to stop everything but the trap is enough to stop the moon. I can see the sunrise and the sunset quickly chasing each other. You better be quick, all this goes damn quickly. Lie to stop it many times. You understand that it's precious. It has only one life. It's a one-way ticket. Stop it many times. You understand that it's precious. It has only one life. It's a one-way ticket. How many times don't you bother and you let run on defenseless without using July to stop everything but a trap is enough to stop the moon. Bellissimo, vero Marco? Sei stato soddisfatto anche detto visto, anche se non ci vedo molto, abbiamo un sacco di una pila di dischi davanti per sostenere la telecamera. A me è piaciuto molto il duetto delle due chitarre, molto californiano, Steve. Cosa dite? Molto californiano. Suonati insieme da tanto tempo. Molto californiano, e poi la California che si è sviluppata e poi è cresciuta. Verso la Florida. Verso la Florida, chiaramente. Nei Vindicator suono. Vai vicino. Suono la tastiera. Quindi le parti di chitarra non le so. Sono state improvvisate. Ed è questa. Questa sera è stata improvvisata. Questa casualità che genera la bellezza. Ma era molto bello sta parte di chitarra. Diciamo che lui sa suonare, di conseguenza. Però si azzera tutte le difficoltà. Uno che sa suonare, suona, basta. E anche il bassista, anche il nostro bassista. Era una vecchia volpe. Era proprio soddisfatto del pezzo. Ha coniato un nuovo. proverbio, cioè, che dice: a qualcuno piace Nando. Ah, ottimo. Grazie Beppe, grazie Beppe. Ottimo, ottimo. Abbiamo sentito questo pezzo che è molto bello, acustico, atipico per la produzione di Vindicates, ma non prontamente atipico, Charlie. Era bello, era giusto inserirlo nell'album. Beh, se volevamo mettere due ballate per dare un po' di respiro ai dischi che abbiamo fatto, sicuramente questo era un pezzo da mettere. Quando si faceva i concerti live, come veniva inserito? Dopo un'esplosione, dopo 4-5 pezzi molto esplosivi, dopo... questo acquietava, cercava di prendersi il fiato e poi dopo ripartire. 20 minuti ininterrotti, perché un'altra caratteristica dei Vindicator, forse si sentirà anche nel disco live, è che non ci sono praticamente pause tra un pezzo e l'altro. Poi improvvisamente invece diamo questa decompressione per il pubblico e ci sono queste due ballate, o Don't Kill Time o I Wonder Why a scelta. Sono due pezzi, come dire, lenti, intimisti del gruppo. E beh, finalmente si respira. Cioè. E finalmente si respira. Prendiamo ossigeno. E... ma lo so, si respira, è vero, è vero. Entra la bombola in palco per Steve. Per Steve. Ah, è come Mick Jagger, bombola, c'è la bombola anche lui. Bombola d'acqua. Bombola d'acqua, sì, effettivamente. Ok, stiamo conversando piacevolmente con i Vindicators. Questa è Blue Radio Veneto, questo è Rock Wave con Marco Borgato in regia e Maurizio Cazzavara alla conduzione. Bello parlare della musica, perché questo qua si respira proprio musica a 360 gradi, non ci sono divisioni, conflitti o barriere. C'è proprio il modo di voler. Poi stasera dal vivo, acustico, ma un acustico, sì, costruito proprio per l'occasione, vero Carlo? Sì, direi quasi. Direi improvvisato. Direi improvvisato. Perché non le abbiamo provate assolutamente prima di venire via, proprio anche per magari così, per dare un po' di spontaneità. E come giustamente ha detto Beppe, certe cose poi nascono quando le improvvisi, quel momento magari poi non lo cogli più. Quando avete presentato all'epoca questi dischi incisi tra l'88 e l'89, mi pare, sì. I pezzi come venivano eseguiti? Con una furia non da poco, oppure erano cambiati totalmente rispetto a come si sentivano nell'album? Allora, c'è una evoluzione anche nel abbiamo un piccolo difetto, una piccola mania di non fare mai quello che c'è scritto sul disco. Ah, cioè, perfetto, quindi cambiavate assolutamente di base, si cambia, ma poi soprattutto non è tanto la canzone ma tutto quello che ci sta dentro, cioè è uno spettacolo. E com'era lo spettacolo all'epoca? Cioè, praticamente è un maniaco che è sempre lui Steve Charlie, che era al centro dell'universo, lui, ecco, cioè, che si sveglia al mattino e dice: adesso cambiamo scaletta, cioè ieri facevamo 20 pezzi, adesso facciamo 20 completamente diversi. Perfetto. Perciò si dice: vabbè, 1, 2, 3 e via. Quello non era tanto il pezzo in se stesso che si cambia, ma cambiava tutta la situazione. Perciò chi vedeva un concerto ieri, domani e ne vedeva un altro, diceva: ma se esiste sul gruppo dell'altra volta. Ma questo è positivo, ma positivo per il pubblico, negativo per voi. Ma neanche fatto apposta. Beh, no, negativo no, perché alla fine ti impari 40-50 pezzi e li sai tutti e vai. Ma la scaletta che la cambiava Charlie in quel momento, c'era una sensazione che tu cambiavi la scaletta? Sì, perché di base è un DJ. Cioè. È un DJ di base praticamente. Tipo Elvis Costello che cambia i pezzi. Cioè. Bravo, diciamo che quello, il mio compito underground era di cogliere le sensazioni del pubblico. Ho capito. Riempire la pista. In base a quali erano le sensazioni si sceglieva un pezzo da fare anche seduta stante. Poi devo dire una cosa comunque, che per me comunque è positivo per noi, perché non ti annoi mai. Ah, questo è vero. No? Poi durante il concerto, beh, quando tu hai già tutto preparato, il tuo strumento, tutto quanto, arriva: no, questa è una ferma, fammi un'altra. Cioè, perfetto. E anche un po' per mettergli alla prova. Esatto, vuol dire. Sono 20 anni che mi fanno una testa così, noi musicisti. Allora vediamo. Siete veramente capaci di cambiare all'ultimo momento. E siete capaci. Cose che i giovani non fanno più. È vero. E come mai secondo te Steve non lo fanno più? Struccano il famoso dito, con il dito struccano il famoso bottone, e perciò è bello andare a suonare in tre, così. Ma che si risparmia, no? Bravo, si risparmia. Tanto poi c'è la macchinetta che fa tutto il resto. Perciò è un po' difficile della macchinetta. No, adesso non so un do, un sol. Cioè, chiaro, c'è. Chiaro. Quella resta. Ma ci sono anche. Tu hai detto una cosa giusta, Steve. Però ci sono certi locali, certi gestori locali che impongono la macchinetta. Ma soprattutto perché risparmiano tutto, cioè risparmi tutto. Se viene la macchinetta, venite in tre, beh, poi un panino a birra, appunto, forse appunto è così. Ricordo sempre che Dente, che è venuto un po' di tempo fa, tenta un musicista alternativo abbastanza interessante e bravo, certo. Diceva che lui per sei mesi ha preso sei mesi di aspettativa e ha girato l'Italia per farsi conoscere, con spesso e volentieri come risarcimento del percorso un panino e una birra. È capitato, certo, il famoso panino con birra esiste, ma adesso c'è anche di più. Dimmi. Perché c'è un aneddoto su Facebook. Vai, spara, dimmi. Un amico che c'è un gestore locale che invita, manda una lettera a un gruppo e dice: ho aperto questo locale, stiamo organizzando un festival, sarebbe bello che tu venissi a suonare con il tuo gruppo, beh, così ti fai conoscere e potrai vendere i tuoi dischi. Chiaramente non ti paghiamo perché ti fai conoscere. La risposta è stata: sì, guarda, io domani mattina faccio una festa con i miei amici, invito 50-60 amici, visto se vuoi puoi venire qua, puoi portare le birre, puoi portarle a mangiare, puoi portare quello che vuoi, e così ti fai conoscere e ti paghiamo una mazza. Cioè, siamo arrivati a dire: ma se le cose qua sono vere? Cioè, sì, sono vere, sono vere. Cioè. Sono d'accordo con te. Cioè, visto che ormai siamo messi malissimo, peggio di così se muore. Cioè, lo so, è vero, verissimo quello che dici, assolutamente vero. Sta meglio quello che è Florida in questo momento. Ma secondo te stanno bene ancora? Suonano ancora? In Florida sì, cazzo, se suonano da Dio, cioè veramente suonano bene. Suonano bene. Ma non hanno difficoltà i gruppi a suonare in Stati Uniti? Gli Stati Uniti? Mm. Assolutamente, secondo, cioè proprio, io ci vivacchio. Si lavora, si suona, cioè i gruppi da Los Angeles partono, vanno a Miami a suonare, al contrario, vengono magari per un panino da birra, ma quel panino da birra sono $600-700 più hotel, più mangiare, perciò alla fine loro si fanno, no, cioè in Italia ti fai 10 date forse, loro ne fanno 200, perciò alla fine quel panino da birra diventa una paga al mese, insomma, cioè, è chiaro, non è tanto, sì, però riescono a vivere, cioè, chiaramente in America 10 volte o 20 volte, so quante volte, 5 volte in Italia. Charlie ha detto una cosa giusta, è la cultura. Cioè, poi culturalmente non ne parliamo, cioè, là i concerti li vanno ancora a vedere, cioè, da noi no. Diciamo che non siamo propriamente nel paese del rock and roll qui, no? Questo è vero. Lo importiamo e facciamo quello, perciò non c'è una cultura base su questo. Qui purtroppo le risorse vengono date. E ancora date... La gente esce, va nel locale, si beve una birra a... E va a sentire chi suona. Va a sentire chi suona. E soprattutto va a sentire con il religioso silenzio chi suona. Ma soprattutto sta attento al gruppo, non si fa, non va a trovare... Da ragazzo, un ragazzo, eccetera. No, va a vedere un concerto nel locale. Un'altra cosa importantissima, sono le 7 di sera, 8 di sera, perciò non devi aspettare un botto della notte che arriva il pubblico, che poi quel pubblico sono 50 persone e che non ne frega niente. Insomma, non importa, però suonano le 7 di sera. Quasi un casino, cioè, alle 7 di sera suoni, cioè. certo. Cosa vedi i B-52s, cioè, che non sono gli unici, no, gli ultimi arrivati. Sono arrivati mezz'ora dopo e non mi hanno aspettato mai. Sono andati via, certamente. Ok, 22:51. Marco, un altro pezzo da scaletta. Che traccia è questa? La numero 2. Giusto? 11. Scusa, Marco. 11, ti ricordi che traccia era 11? Ah, ecco. Esattamente. Vuoi presentare un secondo, Charlie? Sì, Wonder Why è appunto l'altra ballata. L'altra ballata che stasera noi eseguiamo per motivi proprio tecnici, avevi detto, vero? Sì. Sì, potete. No, non eseguiamo. Volendo potreste. Volendo, tempo, non si sa mai fino a mezzanotte cosa può capitare. Vai. Anche perché è uno dei miei pezzi preferiti, sicuramente. Ed è bizarro. Esatto. L'epoca è stata scritta quella, ti ricordi? Ah, sempre dal secondo album. Sempre dal secondo. Come mai secondo album? Che differenza c'era tra il primo e il secondo album? Che le ballad sono tutte nel secondo album. Come mai? Allora, il primo album è un album molto più spontaneo, ma come si dice in gergo, molto più rough, nel senso molto più che è stato ruspante. L'abbiamo registrato nel nostro studio 16 piste con tutto il tempo che volevamo, giocandoci un po' sopra. Certamente. Però un disco, secondo me, produzione vostra, autoproduzione? Assolutamente. Sempre autoproduzione. Secondo disco invece siamo, visto che c'era la CGD, quindi c'era l'etichetta importante. Uno studio 24 piste che per l'epoca era molto importante. E chiaramente avendo tante piste a disposizione, appunto, molte volte perdi il senno e sovraproduci, e allora potevamo fare anche ballate registrate bene, perché è importante che un pezzo letto certo. senta bene. E perciò abbiamo dato dentro anche a questo. Ok. Dobbiamo anche dire che i pezzi lenti sono anche quelli più orecchiabili, e la CGD era molto contenta di avere dei pezzi così nel disco. Sono d'accordo con te. Lo sentiamo allora adesso. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Mm-hmm. go for a walk. We'll have a drink and maybe we will talk. She's my best friend. Then you turn and see her smile. Things like that drive me out of my mind. All true love. Sometimes we feel so sad. I feel like sitting down when reality waits for me behind tomorrow. Ooh, to my great sorrow, I lose every restraint, and so I wonder why I'm. L'onda del rock. Eccoci qua, una ballada, la seconda ballada del disco. Abbiamo sentito questo finale alla testiera di Mark. Steve mi parlava delle. Sembra di, bisogno di famose 500.000 lire che. Sempre quelle sentire, ma Lemon deve essere originale. Sì, ma no, infatti, alla fine si alzava. Perché esattamente. Sentire, cioè, abbiamo Lemon. Abbiamo Lemon. Sì, mi ha costato 500.000 lire all'epoca, però sì, il suono. Però il suono era bello. Era. Niente da dire. Autoproduzione al 100% anche per quello. Soprattutto. Esatto. Stasera mi diceva Steve che ha la chitarra sua personale. Vero, assolutamente, eccola là. Proprio. Sì. Targata Steve Hill. Esattamente, perché Steve, voi non lo sapete cari ascoltatori, ma è un grande conoscitore di chitarre, un grande affezionato, nei 70, 75 a caso, una settantina. 71. Tra gli meno tre fregate da Beppe, ne ha portate via tre, esattamente. Un par di bassi nando. Anche un par di bassi nando. Anche quello, quindi ha un po' di tutto Steve a casa. Una stanza piena di chitarre, di strumenti. Benissimo, adesso facciamo questo giochetto sulla 22 57 4 58. Charlie e Nando non lo conoscono, mentre Beppe e Steve lo conoscono. I tre dischi da portare su un'isola deserta. L'indovinello è questo. Facciamo una piccola regola da seguire: non si può copiare Charlie, quindi fate la scelta chi vuole cominciare. Fate Bobbis. L'altra volta non so chi è. Facciamo Nando, parlare con Nando, dai. Ecco Nando, si avvicina al microfono. Allora, Frank Zappa, cosa di Frank? Hot Rods. Ah, come mai uno dei primi dischi più importanti di Frank, ne ha fatti talmente tanti. Perché hai scelto Frank, un personaggio assolutamente non si può delineare Frank? Perché è un pazzo. È un pazzo, sì. Un pazzo musicale. Poi Deep Purple. No, ti chiedo un momento perché Frank. Frank Zappa, perché era un, cioè faceva della musica molto particolare. Ha fatto tantissime cose, sì, di tutti i tipi. Innovativo, cattivo con la business musicale, ce l'aveva a morte. Giustamente, su certe cose. E non era neanche tanto musica semplice. No, cioè, è molto complicato. Aveva un gruppo come i Barbara Invention, cavolo, gruppi, cioè gente tostissima, suonavano bravissimi. E poi Deep Purple. Deep Purple quale? Deep Purple? Made in Japan. Come mai Made in Japan? Tanti citano Made in Japan, perché, non so, i rock. Perché no, i rock Made in Japan? Perché pulsava. È uno dei dischi più del vivo, più amati e più comprati in assoluto. Magico. E poi Banco del Mutuo Soccorso. Quale? Quello che c'era il Darwin. No, Danaio. Darwin era proprio quello. No, era Darwin. No. Col Salvadanaio. Banco del Mutuo. Esatto. A proposito, il Banco, sono in tournée qui in Italia, qui a Padova, fra qualche giorno suonano assieme al Colle Orme. Sì. C'è un ritorno al prog. Come mai secondo te Nando, un ritorno al prog? Perché i Frigidaire Tango erano un po' prog in quei momenti. Sì. Dicono, sì, qualche critico ha detto di sì, io non ci credo. Per i soldi dici. Ma perché? Eravamo prog perché la nostra infanzia l'abbiamo passata sul prog, chiaramente. Tu dici che c'è una ricostituzione, un riformarsi per i soldi, per i soldi, per il suo lavoro, loro sono le orme e oltretutto amici nostri. Mm-hmm. Infatti domani sera le orme sono una passante, quindi si inserisce. Ne approfitterei. Dimmi. Perché domani sera le orme suonano a Bassano. Al Castello degli Azzelini, perciò. Quindi amici vostri praticamente. Ha registrato studio da me, ha fatto le cose. Aldo Tagliapietra ha suonato sull'ultimo disco di Frigidaire Tango. Perché? Perché fanno sto mestiere qua, di conseguenza, giustamente portano in giro, cioè, ce ne sono pochi gruppi prog vivi. Esattamente. L'unico è il Banco, Orme, forse PFM ogni tanto, però. Qualche volta. Mi diceva un amico che deve venire qua a suonare fra qualche settimana. Che lui conosce il batterista dei Jumbo, ti ricordi Jumbo? Jumbo era un gruppo prog milanese molto famoso. In Giappone continuamente chiedono: perché non venite a suonare in Giappone i Jumbo, che è un gruppo che ha fatto due dischi. Le orme sono appena stati un mese fa in Giappone, sono andati a fare due concerti in Giappone, li hanno chiamati per fare due date in Giappone, vestiva ciappa l'aereo, va in Giappone. Perché in Giappone amano in modo incredibile il prog italiano. Soprattutto il prog italiano. Da quel giorno in cui i malini dicono che qualche giapponese è venuto, ha comprato i master dei vecchi dischi prog e li ha ristampati tutti in Giappone. Difatti costavano dai 50 ai 60 euro i dischi giapponesi stampati, certo. Però ma anche perché una cosa, i giapponesi hanno una cultura musicale molto tecnica. Di conseguenza il prog si fa solo se sai suonare. Sai suonare il prog non lo fai. Quindi poco da fare, cioè, quindi non viene fatto anche per quello, perché tanti giovani proprio non sanno suonare, e i pochi, c'era un gruppo, c'era Mammut credo, una roba del genere, c'era Rinato, giovanissimi, che per suonare dal vivo si portavano dietro un furgone di roba, insomma, cioè, poveri, oltretutto. Cioè, però se non sai suonare non fai il prog. I giapponesi pretendono quello, tecnica innanzitutto, di conseguenza il prog numero uno. Difatti molti gruppi si sono ricostituiti, sono andati subito in tournée in Giappone, come mandato con ricevuta ritorno, altra gente che era finita. Come per il punk italiano, i punkettini, quelli, musica tipo, Blink 182, sempre qua, gruppi italiani che d'Italia non suonano, non si fanno mai sentire, in Giappone fanno tournée da 20 date, insomma, cioè, ben pagati, e non si sa perché i giovani giapponesi amano sta roba qua. Questi italiani che vanno in Giappone a suonare, noi in Giappone no. Nando, l'ultimo disco che devi scegliere è il Banco. Hai già fatto i tre, c'hai il tocca a te adesso, avvicinati al microfono. chiedere a me una cosa così è veramente una crudeltà. Sì, lo so che tre sono pochi, lo so. Infatti, lo so. Ne dico almeno quattro. Va bene, dinne quattro, dai, non c'è problema, non c'è problema, non esiste. Ma così, comunque, va bene, sarebbero molti. Così, rappresentativi per me, direi il White Album dei Beatles. Come mai secondo te, Charlie, perché White Album? È avanti su tutta la musica totale. È un disco totalmente pieno di tantissime cose. È un disco pieno di innovazioni e pieno di generi che poi diventeranno di canzoni che diventeranno generi. Da Helter Skelter piuttosto che, insomma, vabbè. Sì, sì. È un disco, secondo me, oltre ad essere un doppio, poi intanto nemmeno porto via due. È vero, giusto. Il famoso mitico doppio album bianco dei Beatles. Dopo, per stare nel bianco, direi sorprendentemente Il mio canto libero di Lucio Battisti. Ah, come mai hai scelto Il mio canto libero, che è un disco, forse il disco più venduto della sua discografia, più amato? No, anche. Purtroppo non è il più venduto. No. Il più venduto è Una donna per amico, ahimè. Ah, beh, insomma, è uno dei più venduti, dai. Perché è un disco, a parte perché che non ami Una donna per amico, a parte che l'ultimo Battisti, sono legato a questi dischi per un discorso di età, ovviamente, certo. Perché era, insomma, la mia adolescenza, e perché lo ritengo uno dei più bei dischi italiani, e perché ritengo Lucio Battisti un genio assoluto, insomma, uno molto avanti. Sì, direi proprio quando faceva le cose molto molto avanti, assolutamente, fino all'ultimo. Sì, sì. Beh, ne pensi del dopo l'abbandono con Mogol, la fase molto molto... Anch'io stupidamente avevo un po' snobbato la collaborazione con Pannella. Poi nella fine anni 80 ho detto, non è possibile che uno così, no? Non ho riascoltato quei dischi, che io li chiamo i dischi bianchi, sì, perché sono dischi bianchi. Tutti bianchi, sì, effettivamente. Li ho riascoltati all'infinito, perché volevo farmeli, trovarci qualcosa. E in effetti i grandi dischi ti entrano un po' alla volta. Certo, ci vuoi tempo. Ci sono dei brani che secondo me sono straordinari. Quello che un po' mi lascia lontano da quei dischi è proprio l'arrangiamento, perché è quasi tutto digitale, perciò piuttosto freddo. Molto freddo. Però quelle canzoni rifatte, come dire, acustiche, quella sono straordinarie. Però diciamo che il periodo Pannella, c'è anche Don Giovanni che fa parte di quel periodo là. Cioè, è il primo, è collegato fuori il post, molto post Mogol, per esatto. Molto bello Don Giovanni, esatto. Un disco meraviglioso. Esattamente. Poi ancora un altro? Poi direi After the Gold Rush di Neil Young. Come mai hai scelto uno dei dischi più importanti, secondo me, anche se non è il più famoso, uno dei più famosi, anche molti ricordano Harvest. Ce l'ho dentro visceralmente. È bellissimo. È proprio un antagonista di Harvest, proprio anche lì, vedi, è una questione di produzione. Harvest è un disco il più conosciuto. Sì, conosciuto di Neil Young. Però è un disco sovrapprodotto. Sì. Sono gli archi, è un po' snaturato da quello che è il Neil Young vero, che io lo ritengo quello di altri. È un grande sperimentatore. Non tralascerei anche, visto che siamo in tema, anche On the Beach, che ritengo un altro capolavoro, sconosciuto. È l'ultimo americana, cosa ne pensi? Queste riproduzioni di cover che lui ha fatto. Beh, ne parlavamo proprio l'altro giorno, che siamo Steve? Fans fegatati. Prima non capivamo il senso, poi l'abbiamo capito. Passo quello che voglio. Tanto per dirla. Massimo rispetto in ogni caso. Lui può fare quello che vuole. Lui fa quello che vuole, giustamente. Ti fa un gran disco, poi ti fa un disco che non lo capisce nessuno, perché giustamente fa. Intanto non sanno. Cioè, chi ascolta sto disco non sa che sono delle cover di traditional americani, certo. Perciò la prima roba butti su, dici, ma che roba è? È impazzito. Esattamente. E dopo, quando lo vengono a sapere, non lo cagano più, cioè non lo guardano più, di conseguenza non ascoltano più. Invece comunque ha del coraggio, fa quello che vuole. Infatti adesso fa uscire, o è già uscito, il disco nuovo suo. Certo. Cioè, quindi ha sempre fatto quello che ha voluto. Sì, ma da sempre. È uno di pochi che sicuramente, secondo me, ha sempre fatto quello che ha voluto, anche proprio anche con Harvest, più sopra, ha sempre comunque fatto. Ha fatto anche dei dischi bruttissimi, tipo trance. Sì, madonna, cioè, soprattutto dei dischi bruttissimi negli anni 80. Sì, è inqualificabile. Però per lui il problema è, non sono brutti, cioè, era quel momento brutto. È quel momento là, sì. Quello brutto, perciò, computer music, tutto, certo. Anche se dentro in quei dischi ci sono dei pezzi, c'è cioè un pezzo molto decisamente validissimo. Certo. Poi aveva anche un cambio di musicisti, quando hanno cominciato a usare i fiati, sì, certo. Queste cose qua, cioè, poteva risparmiarsela, sì. Però quello è il periodo ciò non toglie che lui consapevolmente ha fatto un disco anticommerciale, basterebbe solo questo secondo me per salvarlo, perché ha avuto il coraggio di fare un disco così. Sono all'epoca Lou Reed fece Metal Machine Music, un disco doppio di rumori assolutamente, però gli ascoltavi dicono invece era un capolavoro. Io trovo che un musicista che può fare dell'altro e fa questo è da ammirare. A proposito di questo, Marco, cosa ne pensi quel disco doppio di Lou Reed? Quante volte l'hai ascoltato? Un sacco di volte. Un sacco di volte, si l'ha sentito un sacco di volte. Beppe, tocca a te adesso, vai. Vai davanti al microfono, per piacere. Eccoci, vicini, molto bene. Sarò breve. Vai, Beppe. Never Forever, Kate Bush. Non puoi essere breve citando Kate Bush. Vabbè, che devo dire? Perché Kate Bush? Perché è un disco prodotto bene, suonato bene, composto bene, bei testi, bel arrangiamento, bel giri di basso, tutto bello. Tutto bello. Pet Sounds, Beach Boys. Quello è tutto bello, tutto, perché bello, quello è un capolavoro assoluto. È un masterpiece. Rubber Soul dei Beatles. Hai scelto motivo. Sempre dischi assolutamente in colori. Bene, cantato bene, scritto bene. In colori, assolutamente in colori. Con questo è tutto e prodotto, ringraziamo. Tutto è prodotto, super prodotto, tutto bello. Cioè, infatti, giustamente. È un produttore. Beppe è un produttore. Deve giustamente. Certo. E Steve adesso? Young. Tutti i tre dischi di Young. Dai, sali, uno a caso. Tutti a caso. Con i Crazy Horse o senza? Tutti. Ah, tutti proprio, completamente. Fai un mix. Fai tre. Beh, ne ha fatti talmente tanti. Young. Dopo, è curioso, dimmi. Che un musicista che ha suonato nella sua vita new wave, punk e rock and roll. Certo. I suoi dischi preferiti siano quelli di Young. Ma possiamo dire, perché Neil Young, cioè, chiaramente io l'ho conosciuto quando il punk non esisteva, cioè, giustamente avevo 14 anni, ascoltavo Neil Young, 15 Neil Young, 16 Neil Young, 17 Neil Young, 17 e mezzo si arriva questo in piazza, questi Sex Pistols, è un po' sconvolto. Sono passato da Neil Young ai Sex Pistols, passando per Carlo Santana. No, questo episodio è bruttissimo episodio della questo mia episodio vita. Vorrei raccontarlo. Vai, spara. La dice lunga. Mamma mia. Quando tornai da Londra nel 77, conoscevo di vista Steve. Lo andai a trovare perché mi ero preso una chitarra per imparare a suonare. Lui era l'unico che insomma poteva dar lezioni e aveva uno studio. Quando sono andato a trovarlo, stava provando col suo gruppo e stavano facendo Let the Children Play di Santana. Sì. Io avevo in mano però Leave Home dei Ramones, che era un disco che avevo appena preso in America. E glielo feci sentire e lui sciolse il gruppo la sera stessa. Il giorno dopo abbiamo iniziato subito. Come mai? Cosa allora, sai? Non ami particolarmente Carlos. Come mai non lo ami particolarmente? Carlos Santana. Ma perché? Perché? Non lo considero un musicista. Ma no, non c'entra niente. Diciamo che era il passato. Non c'entra niente proprio con me. Ho capito. Non ci siamo proprio. Non fa parte del tuo DNA. No, proprio zero. Ma neanche da. Nessun disco di. Quando ero piccolo, sentivo sta samba partita. Mai piaciuto. A me piacciono molto in Santana. A me piace Santana quando ha fatto live con Augusto. Quella parte, però poi basta. Okay. Finito quei dischi? Sì, abbiamo finito quei dischi. Io avrei voluto comunque dire il primo dei Velvet, il primo dei Pink Floyd. A proposito di Velvet, disco a caso di Bowie. Chiaro, io mi porto i tre di Young, però dopo c'è Bowie. Ce ne sono tanti altri. Però una, dischi Tre dischi, ma senza. Effettivamente. Adesso c'è un ritorno alla gira di dischi. Però tu hai citato Lou Reed. Cosa ne pensi dell'esperimento Lou Reed Metallica? Mamma mia, no. No, non ti piace? No, assolutamente no. No, perché adesso qui non si possono. A parte che è una parola. Io divido il rock in due parti: rock e rock ignorante, che è una parola che si può dire. Sì, certo. Come un po' fine a sé. Ma lui non può dire che sei ignorante, Lou Reed, assolutamente. No, anzi. Lou Reed è tutt'altro che ignorante. Ignorante sui Metallica? Sì. No, rispetto i Metallica, perché comunque sono un gruppo. Però quello che fanno e che danno secondo me è molto limitato ed è limitante, e lo è stato anche probabilmente anche per Lou Reed, credo sia stato un'operazione. È stato un esperimento, un tentativo, non so se è stato un tentativo voluto dalla casa discografica. Lou Reed ha fatto una collaborazione con John Cale, Song for Drella, Bellissimo. Che è un capolavoro, bellissimo, voglio dire. sto qua con i Metallica, insomma. Però vedi, se, no, non so se hai sentito il disco, che è un doppio CD, un doppio album, c'è un pezzo da 9 o 10 minuti che era molto interessante. Vabbè, ecco, dopo io, altrettanto ignorantemente, io l'ho ascoltato due volte, ho detto no, forse no, forse avrei potuto insistere, però i Metallica. Poi Metallica, oltre a questo, so che sono uno dei gruppi che ha fatto una crociata vera e propria contro la pirateria. Sì, questo è vero. Ecco, siccome invece io sono a favore, mi ho qua, mi stanno qua. Ok. Sono a favore per un problema filosofico, Non. Però i musicisti come Metallica che prendono miliardi. Chi è? Metallica. Ok, suoniamo, suoniamo, dai, che cosa? Suoniamo, direi un blues. Facciamo un blues, Metallica. Adesso è il momento giusto per un il blues. Un bel blues sofferto, okay. Facciamolo. Cioè? Speak out. Mamma mia. Here we go. Questo è un blues che apre il primo disco. Eravamo partiti con l'intenzione di fare anche del blues, poi ci siamo fatti prendere la mano, però l'abbiamo lasciato come apertura. When I see you coming, I just have to run. Can I have some good time? Can I have some fun? Let me sit in the backseat all alone, so then I can hear the plumber. There's no the saxophone. If you want to help me, don't let me out, 'cause if you take the risk, I would scream and shout. People thought me to be a little toy, and I keep on pretending. Come on, Nando, play, please. If you want to help me, don't let me out, 'cause if you take the risk, I will scream and shout. People thought me to be a little toy, and I keep on pretending. Is it you, Sonny Boy? Hello, Sonny Boy. Siamo partiti, bellissimo, complimenti, bellissimo. Io ho detto proviamo i pezzi, ma cosa vuoi provare? Era un altro pezzo. Adesso Nando mi rifà la solo che aveva fatto prima, che hai dato. Fai, vai, vai Nando, vai. One, two, three, four. To meet, so then I can hear your heartbeat. Now want your attention, the band is slow, and in a few seconds we can go. Bellissimo. Ciao. Bon, next. Perché no? Deve finire. Non deve, certi pezzi non devono finire mai, devono continuare. Devono, tempo noi devono continuare. Continuiamo a improvvisare. Beh, questo è bello così. Proprio. Beh, questo era un blues, ma un blues fatto a immagine dei Vindicator stasera. Assolutamente, perché noi di blues davvero non ne sappiamo nulla. Come non è fatto nulla? Qualcosina, no, sì. Sì, però non era il vostro genere. Assolutamente. John Luke, uno qualsiasi. Qualcosetta, insomma. Cioè, per entrare nei tecnicismi, la prima volta che ho sentito questo pezzo qua, ho pensato esattamente che i Vindicators di blues non sapevano nulla. Assolutamente niente. Perché qualsiasi giro blues parte e poi va, per usare sempre un tecnicismo, la quarta sopra, quindi partiamo in mi e andiamo in la. Questo parte in mi e va in fa diesis. quello è il bello che c'è, non sapere perché fai quello che vuoi . E tu, e poi giustamente lui dice avete messo in difficoltà Beppe, allora, così. Sicuramente c'è, cioè, un perfezionista come Beppe, cioè, deve capire che non si va in là, si va in fa diesis. No, lui l'abbiamo preso per metterci un po' in riga di fatti soprattutto io per poter respirare e per dirci anche le note che facciamo. Allora, il discorso del che tu cambi le scalette fa parte di questo ragionamento. Assolutamente. Quindi cambiate in lavorazione, probabilmente fate il pezzo, cambiate, potete cambiare proprio l'arrangiamento proprio in quel momento. Se siamo affiatati e stiamo bene, abbiamo l'entusiasmo e il piacere di suonare, queste cose riescono. Se vai fuori per suonare, per prendere due lire, perché non sai cosa fare, magari no. È veramente una questione, come dire, uso questa parola ormai abusata, di feeling. Capito. Bene, ho capito molte cose per questo. Benissimo, 23:19, sempre Marco Borgato in regia, i Vindicators. Bellissimo, stiamo cercando di capire com'era il sound di una volta, com'è il sound di adesso. Cosa dici? Assolutamente. Beh, libero, ripeto, un libero sound. Facciamo quello che vogliamo musicalmente parlando. Cosa dici, Steve? Sei d'accordo? Sì. Che tra l'altro adesso sarebbe il momento per tutti, visto che i generi non ci sono più. No? E non esistono più, vero? E proprio adesso, che era il momento che tutti potevano fare quello che volevano, sono arrivate le macchine che hanno un po'. Le macchine sì. Tagliato un po'. Sì, hanno tagliato. Ma io cito l'esempio di Pearl Jam, gruppo straordinario, bravissimi. Hanno sempre, sì, le macchine non ti piacciono i Pearl Jam, non ti piacciono. No. Non sono straordinari per no. Siamo più Nirvana. No, neanche lui, questo. Neanche. Ma io sì, Kate Bush. Kate Bush sempre. E i Vindicators. Beh, ricordiamo che Bush dicono, non so se sia una legge, ma io penso che la prima audizione l'ha avuta grazie a David Gilmour. È vero, no? Quindi sono. Era bravissima, però è stato David Gilmour che ha dato, anche perché lei faceva parte della Halvest, etichetta dei Pink Floyd, ha avuto un appoggio. Era anche carina, però aveva una bella voce e anche una bella intelligenza musicale. Dobbiamo tener conto di questo, perché anche se sei carina, ma se sei intelligente musicalmente, ti fermi al primo disco. Questo è chiaro. Non conosco un pezzo di Kate Bush, neanche uno ne conosco. Non sai chi sia. Eccolo qua. Ecco, quello è famoso. Questo. Adesso cambia tutto. E te la ricordi? Canzonette. Sono solo canzonette. Tanto ti sta distrutto un mito. Sì, un mito. Ok, 23:21. Cosa c'è in scaletta, Marco? Adesso come. No, abbiamo finito la scaletta. Beh, possiamo mettere un altro pezzo da disco, Charlie? Sì, avevamo tenuto un pezzo così in sospeso. Se vogliamo sentire un pezzo bello tirato, c'è Down, Down, Down. Che traccia vogliamo... è? Ti ricordi? La numero? Adesso Marco la tira fuori. Un critico ha scritto che è molto vicino a MC5. Dai, è vero? Quello, infatti, l'avevi tu consigliato. Parliamo di MC5 un secondo. Quel ruggito incredibile che hanno MC5. Come mai? Secondo te, Charlie? Lì c'è la rabbia. C'è la rabbia. Assolutamente. Anche se io ero uno stuzziano più che MC5. Cioè, e hip hop l'hai visto qualche volta? No, 12 volte. L'ultimo hip hop, che ne pensi? L'ho visto proprio. Cosa ne pensi del disco che ha fatto? Che è un po'. È lasciato un po' così. i dischi, beh, anche lui ha un'età, certo, ha un'età, deve fare qualcosa di diverso, proprio per non ripetere. Che gruppo aveva portato avanti? Cioè quello che hai visto recentemente? Beh, io l'ho visto di nuovo con quel che è rimasto degli Stooges, ma lui a 65 anni salta il doppio di me nel palco, è una roba incredibile. Ha fatto i vecchi pezzi di Stooges? Assolutamente. Anzi, ha fatto solo, solo quelli di Stooges. Ma una carica, insomma, vabbè, quello è uno delle nostre icone, assolutamente. L'avrei citato nei migliori dischi se ci fosse stato. E poi dobbiamo sempre sottolineare, a proposito, tu hai citato David Bowie, Steve, che è stato salvato letteralmente da Bowie. Due volte. Mm. Esatto. Una volta l'ha salvato bene, l'altra volta un male, po' meno. Gli ha fatto fare un disco che è bla bla bla, che è un disco purtroppo. Però il precedente era commerciale. Beh, Idiot era bello, Idiot è un capolavoro. È un capolavoro, ma lei si drogavano alla grande. Sì, c'è. Questo siamo d'accordo. Però dobbiamo sentire. Quando l'hanno ripulito e fatto un disco. E a proposito di Lou Reed, cioè di David Bowie, ha salvato anche Lou Reed con Transform. Sì. E Transform era un capolavoro assoluto. Al di là della cover che ha fatto Patti Profo, che quello non c'entra niente. Però era un grande disco. Non tiri fuori gli artigli, Beppe, la cover che ha fatto Patti Profo. No, Berlin. Meglio Berlin? No, Transformer è uno dei miei dischi preferiti. Beh, il microfono. È il quarto disco da portare su un'isola deserta. Sull'isola deserta è il quarto disco Transformer, perché ha un suono bello, è scritto bene, soliti motivi, no? Certo. E poi chiunque tocca questa roba qua, anche se lo fa bene, anche se è bravo. Beh, non l'ha fatta male la cover dei Patti Bravo. Vabbè, ma no. Beh, diciamo che l'ha fatta quasi contemporaneamente, perché è su Pazza Idea, che è un disco del 70. No, ma è già di Kensington. Sì. No, Peter con le mani, or via. Fuoco. Eppure una volta le cover si facevano alla grande. No. Però se togli quel pezzo di Patti Bravo da quel disco, il resto del disco è un capolavoro. È un bel disco, Pazza Idea. È un disco di un certo livello, assolutamente. I bei dischi degli anni 70 italiani. È vero. Comunque lui fa Bowie come non lo fa nessuno. Oltretutto. Fammi Bowie un secondo. Fai un secondo Bowie. Le sa tutte. Dai. Accennaci. Fammi Bowie un secondo. Dai, che sei bravo, Beppe. Dai, fai Bowie un secondo. A little piece of you, a little piece of me. Well, America. Oh, this is North America. Sing it, play the guitar, jamming good with wearing. Fatto i due pezzi che proprio non mi piacciono. Non ha fatto neanche Space Oddity, purtroppo. Cioè. Non hai fatto neanche Space Oddity. No, troppo male. Una cosa, perché bisogna dire tutto quello che dimmi, dimmi. Allora. Vai al microfono, non so, please. Scusa. Vai. Carlo Casale. Che è qui presente. Che canta con i Vindicato, si frigge del tango, eccetera. Mi ha invitato per 7 anni, 8 anni, ogni anno in gennaio, a fare un tributo a David Bowie nel locale che gestiva. Si chiama Shindy. Quindi io non ne posso più. Io ho suonato per il locale che gestiva Carlo. Tutto quello che ha fatto Bowie, dalle canzoni degli anni 60 al periodo glam, in modo superlativo, cioè, devo dire. A un certo punto non ne posso. Quando mi chiedono fai Bowie, è come per Elisabetta Viviani cantare Hyde. È la stessa cosa. Abbiamo detto apposta, perché così sappiamo che non è proprio. Perfetto, benissimo. Ora ci riposiamo un secondo e sentiamo il pezzo che abbiamo detto prima. Questo è Down Down Down dal primo disco. Questo è proprio un pezzo cosiddetto rough. Abbiamo sperimentato il rock and roll un po' tirato, giustamente, alla MC5, proprio con questo pezzo. Devo dire una cosa importantissima, dimmi. E mi scuso con Sonny Boy Cocco, che è stato il nostro armonicista e ha dato un'impronta fondamentale al primo disco proprio con l'armonica, che non è presente nel secondo. In questo pezzo dovrebbe sentirsi abbastanza bene. Ok. Down, down, down. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Ok, ci siamo sentito questo pezzo. MC5 dipendente, no, è Vindicator al 100%. Diceva giustamente Beppe che c'è un po' di tutto in questo pezzo, perché i Vindicator non è un gruppo che ha un filo conduttore, ha tanti fili conduttori, ha tanti generi che messi insieme, che riprendono, che praticamente ricostruiscono, rifanno. Giustamente diceva anche Steve e prima Charlie, noi non suoniamo solo il blues perché non lo conosciamo, meglio, lo conosciamo però a nostra maniera, l'abbiamo improvvisato, lo ricostruiamo, lo allarghiamo come vogliamo noi. Diciamo che abbiamo personalizzato, ecco, generi che non conoscevamo. Esatto, personalizzato. Comunque conoscevamo come, cioè, pensavamo di conoscerli, invece non li che non erano magari i nostri generi amati. Ma ritorna sempre al discorso iniziale che abbiamo fatto alle 22, la libertà innanzitutto, libertà di fare quello che piace, che diverte. Tu hai detto giustamente, però, quando andiamo in un certi locali dobbiamo eseguire determinate cose, però. Certo, se andiamo in un locale dove c'è un party, un piccolo locale dove la gente ha voglia di ballare, divertirsi, è chiaro che cambiamo la scaletta e facciamo pezzi più adatti al ballo, sempre con tutta la nostra. Se facciamo concerti su posti grandi abbiamo i pezzi quelli tosti da gruppo, da Frigider Tango, Steve, da rock and roll, anche se ripeto, i Frigider Tango sì erano rock and roll, ma non erano rock and roll come Vindicators, secondo me. Assolutamente, Frigider Tango avevano proprio un idioma diverso. Esattamente. Adesso abbiamo circa mezz'ora e di solito si sparano sempre le cartucce verso la fine dei live, e adesso abbiamo mezz'ora per sparare tutte le cartucce musicali che abbiamo. Sì, cartucce sono a salve qua, perché stiamo improvvisando. Ma è bello così, l'improvvisazione proprio è culto, il culto della musicalità. Come è rock and roll, improvvisazione in genere, anche se è un'improvvisazione qualche volta studiata per certi gruppi, grandi gruppi. Sì, ma non è più improvvisazione. Proviamo Better Late Than Never versione acustica. Facciamo versione acustica, abbiamo sentito da disco. pessimist is only that you're growing up. You gave your soul for the couple of songs, but it could have been me. Yeah, baby. Realize nothing is over. It was a change of plan. Oh, baby, you can really learn a lot of way. You know it takes a long, a long, long time. Better late than ever. Better stay the same. The young to live. Late than ever. Better stay the same. The young to better live. Better late than ever. Better stay the same. The young to better live. Better late than ever. Better stay the same. Come with us to all done. It's a hard for you now, better make it somehow. I'm fit on my feet, better fit on the ground. And a dance we swore from the east, put together now. Come on now. Realize nothing is over. It was a change of plan. Oh baby, you can really learn a lot. Got a feeling you lose my heart, and I wonder you take your heart. Come on, baby, we fall of you, and the shake it is up to you. Tell your love, tell your love, tell your life. Turn your love, turn your love, out of sight, out of sight. Turning me, turning me, burning you, burning you, burning feeling, baby, around my loop, I love my loop. Get around me, you never harm, and the burning will fall apart, and the shaking is all the world, and the burning is out the world. Turn your love, turn your love, turn your life, turn your life, turn your love, turn your love, out of sight, out of sight. Turn your love. Show down. And are you ready for all around the world, man? You sing a song for all around the world. When I said, huh. Go down, please. Shh. Sesso. Sesso all around the world. Got to be on fire. Burn without my baby. I walk 100 miles with a kick up in my hand, baby. 10 foot pitch. Run into the jungle. My father with a switch. Because I know I love you, baby. Oh, I love you, baby. Oh, I love you, baby. Trees and gold trees, rap, violence and poultries. And you got Mona Lisa. What's up, man? You got a little lonely in the middle of the night. Need it, darling, everything's alright. Come on, baby. Come on, baby. Come on, please. Come on, please. Come on, honey. Come on, honey. I want money. I want money. Show your love. Show your love. Show your life. Show your life. Show your love. Show your love. Life. Without a sign. Without a sign. Show your love. Bravissimi Vindicator, strepitosi, una jam session allungata che non finisce mai, che doveva finire mai, assolutamente, e manca ancora un quarto d'ora, quindi dobbiamo, ci riposiamo un secondo, avete anche l'acqua se volete bere, assolutamente, per rinfrescarvi un poco. Hai fatto una specie di purrì di hai messo un po' di tutto praticamente. Sì, anche pezzi non nostri. Vabbè, anche pezzi non vostri, chiaramente. Che però sono come appunto gli altri, completamente stravolti. E questo è il modo di suonare dei Vindicators, qui chiaramente è una versione pseudoacustica, però dal vivo con gli strumenti elettrici è un'altra cosa. Sì, poi c'era Nando che andava via alla grande, era scatenato. Nando è una garanzia. Nando era scatenato stasera. Decisamente. E volevo chiederti una cosa, Steve, Steve e anche a Carlo. L'idea di fare i pezzi all'epoca, come partiva? L'input, solo l'input. 1, 2, 1, 2, 3. Quello era l'input, era così, solo questo era. C'era anche Mark che gli dava una mano, no? No, Mark arrivava sempre a mettere dopo delle cose sue, e perciò quel 1, 2, 3, 4 diventava, no, adesso un bel do, diesis decima minore, e poi un sol settima maggiore minore con un bel nona, e insomma, sconvolgeva un po' il discorso. Si faceva. Si partiva da un pezzo tradizionale che veniva, per poi appunto aggiungere tutto l'ego che ognuno aveva di noi. Ecco, quello ha detto una cosa giusta, tutto l'ego, cioè tutte le capacità, le voglie che avevate musicali di dire. O le follie. O le follie musicali, chiaramente. Però, senza, come giustamente dicevi, senza nessun limite. Senza nessun limite. Quindi già lo studio era così, e dal vivo era ancora maggiore. Assolutamente. Assolutamente. Da vivo avevamo un altro marca, si chiamava Tasto, e suonavamo con un dito e faceva tante cose belle, cioè si faceva molto più casino in palco che in studio, chiaramente. In studio era più studiato, non veniamo di friggere il tango, perciò facciamo le cose un po', invece dal vivo era proprio... Non c'era libertà assoluta. Libertà assoluta, sì, chiaramente. Cioè, dopo dipendendo da quante birre c'erano sotto, anche quello. I posti dove suonavate, grandi, piccoli, i più grandi che siete stati? Fantastico, la la festa della birra di Varese, una roba mitica. A Caravate, vicino a Varese, Caravate, credo 20.000 persone per una festa, cioè non per noi, grandissimo. Però suonavamo noi, certo. Quindi sono rimaste là tutte, insomma. Tutti fino alla fine. Un ricordo strano che posso raccontare dal vivo, certo, è un concerto vicino a Napoli, a Castel Volturno. Che Nando si ricorda anche Nando. Sono passati tanti anni, perciò si può anche dire. Certo. Abbiamo avuto questo ingaggio e all'epoca ci offrirono una cifra buona che non capivamo come era grossa, insomma. Potevano fare più. Perché si parla di milioni, insomma. E arrivati nel posto abbiamo capito che era una festa privata di un boss. Esatto. Facoltoso. In una spiaggia privata. Un palco, un impianto, tutto, e noi abbiamo suonato questo concerto incredibile, perché poi suonando proprio in mezzo alla spiaggia, cioè, si è creata una situazione molto bella, privatamente per questo boss. Ma la cosa più particolare, forse anche convenzionale, diciamola, è che un'ora prima dell'inizio del concerto non c'era corrente. Al che il nostro fonico era preoccupatissimo, ha provato a chiamare direttamente l'Enel di Castel Volturno, i quali gli hanno detto: guarda, ci sono dei lavori in corso, non se ne parla. Come nei film, io non ci credevo. È arrivato questo personaggio, che io potrei anche dire il nome perché si chiamava Scalzone, la dice lunga, il quale, proprio come nei film, di fronte a noi ha detto: oh, che problema c'è, ragazzi? Non c'è problema. Eh no, che la corrente abbiamo chiamato. Oh, non preoccupate, ha fatto lo stesso numero in 5 minuti. È arrivata la corrente. La corrente abbia fatto questo concerto. incredibile. Bel concerto in spiaggia, buco. Poi abbiamo suonato al Castello Sforzesco di Milano con i Timoria, che ci fecero da supporto, perché all'epoca erano ancora sconosciuti. C'era Pedrini e Ringaro praticamente. Sì, poi abbiamo suonato a Genova anche con i Flashstones. Com'è stato il concerto con i Flashstones? È bello tosto, perché lì c'era. Allora, il concerto di Flashstones di essere Genova, a livello Dimmi. Di Genova, allora no. Sì, Genova. 1989. 89. Ha chiamato il giorno prima. Sì. Ah no, anche questo dimmi. È un bel aneddoto, se abbiamo due minuti. Madonna, certamente. Noi conoscevamo i Flashstones. Io conoscevo anche il manager italiano dei Flashstones, il quale mi telefona un bel giorno e mi dice così: Carlo, ho un problema. I Flashstones in tour, stanno entrando in Italia per il tour, mi hanno fermato alla dogana il loro chitarrista, il loro bassista nuovo, il quale non era altro che il bassista dei Television, perciò uno qualsiasi, che era in tournée con loro. Alla dogana non ha fatto passare il problema di documenti. Certo, non avevi documenti. Mi ha detto: io stasera ho un concerto a Rimini, allo Slego, che era la mecca del garage, perciò era prevista il momento in cui Flashstones era al massimo. Se parliamo dell'87. Non so cosa fare. Io so che voi suonate pezzi dei Flashstones. Non è che qualcuno può venire. Mi ha detto: guarda, io posso chiedere al mio chitarrista se viene a suonare il basso improvvisando un concerto intero stasera. Non credo. Stefano ha preso la macchina, è andato giù e ha fatto il concerto. Sei andato, Stefano. Madonna. E ha suonato sia quello che il concerto del giorno dopo a Genova. Perciò ha suonato il basso con i Flashstones e la chitarra con noi, insomma, di fatto. Perfetto. Sì. Indimenticabile. Esistono anche delle foto di quel indimenticabile. È stato bellissimo, perché per la prima volta uno si è sentito, mi sono sentito veramente. Che qualcuno ti considerava. arrivato a Rimini, hotel, tappeto rosso, amplificatore, cosa vuoi? Ma cosa voglio? Ma tu non parli inglese? Noi no. Sono italiano. Ma come? Ma sei presente presto? No, insomma, tutto un bel fatto. E poi è stato dentro proprio questa stanza, che loro parlavano in inglese, io non capivo una parola, però è 1, 2, 3, 4 e via. E via. E quindi vi siete trovati immediatamente. Sì. No, il brutto, il difficile è stato soprattutto fare il teatrino, fare le cose che fanno loro. Ho capito. Il pettine, qua, che io l'avevo solamente visto e non l'avevo mai fatta, è stato un po' difficile, però poi per suonare il basso, no, però il resto bellissimo. Bene. Poi abbiamo suonato anche con i Gang molto all'epoca, che giravano, quindi i Fratelli Severini praticamente in Torino. Con loro abbiamo suonato con i Plastic. Dimmi, anche Nando, dicevi da spalle brurale. Ah, e sì, un piccolo particolare, abbiamo aperto per i Blues Brothers. Ah, è vero, sì. Vero, verissimo. Al Palasport. Com'è stato quell'avvenimento, quella sera? Mi sono fatto filmare le chitarre. Ah, ti sei fatto filmare le chitarre. Emozionante, sicuramente, perché comunque i Blues Brothers all'epoca, insomma, chiaramente non c'era John Belushi. Certo, però... Finto. Però abbiamo suonato noi, Tolo Marton, che è sempre una garanzia, un grande, e esatto. I Blues Brothers, e al Palasport, anche lì c'erano, credo, 15-18 persone. E bella esperienza. Sicuramente. Beh, ricordi. Sì, l'unico così è che quando suoni da supporto, apri per un altro gruppo, sai, la gente, non è che il fonico è lì per te. È per gli altri. Perciò la nostra esibizione non è stata così impeccabile come doveva essere sonoro. Mm. Però la presenza è stata importante e ancora se ne parla. Perciò. Certamente. Allora, sono le 23:48, abbiamo circa 12 minuti. Io vorrei questo. Facciamo un bel pezzo per arrivare quasi a mezzanotte, poi salutiamo, ok? Mm. Pezzo live bello tosto. Un altro pezzo live bello tosto. Bello tosto, dai. A vostro piacimento. Piccolo. Però dura un minuto e mezzo questo. Facciamo durare 4-5 minuti, dai. Questo? Ma è possibile. Scegli un pezzo, dai. Beh, questa è Wonder Why, che l'abbiamo sentita da disco. Se volete, sì, lo facciamo, dai. Lo facciamo e poi chiudiamo con un pezzo minimo veloce. Sì, dopo chiudiamo con un pezzo minimo. Drive me out of my mind. All true love and hard to see, but I wonder why. Sometimes we feel so sad. I feel like sitting down when reality waits for me behind tomorrow. Ooh, to my great sorrow, I lose every restraint, and so I wonder why I'm here. Good today, I'm living in a dreamland. I feel good in a special way. I am far from the city now. You saw me smiling down, and you asked me if reality was a gift to me. But now I wonder. I feel like sitting down when reality waits for me behind tomorrow. Ooh, to my great sorrow, I lose every restraint, and so I wonder why I'm here. Era un era una ballad. Adesso ricordiamo, Charlie, i riferimenti, il vostro sito, se avete dei concerti e dove si può trovare anche fisicamente il disco. Allora, i concerti suoneremo venerdì sera a Bassano. Questa settimana? Bassano con Giuliano Palma e Blue Bitters al Parco Ragazzi del 99. Perfetto. Posto molto grande. Suoneremo poi il 14 a Dasolo. Suoneremo. Ecco appunto. Voi che siete di là, mi avete sentito? Puoi ripetere un'altra volta. Allora, suoniamo a Bassano del Grappa venerdì sera con i Blue Bitters a Parco Ragazzi a 99 alle ore 20:30 puntuali, perché il posto ha problemi di orario. Perciò non è modo di dire, ma proprio alle 20:30 a Giuliano Palma, il posto apre alle 5 del pomeriggio. Poi saremo il 14 all'Asolo Free Music Festival con Pete Best, il famoso e sfortunato batterista dei Beatles, che purtroppo è stato sostituito all'epoca, perché dicono che era molto bravo, invece Ringo era leggermente meno appariscente. Però era così. Più simpatico. Era più simpatico. E suoneremo ad Asolo con lui, con i Muleta, che è un altro gruppo dalle nostre parti molto tosto. Conosciuto. Con i Jennifer Gentle, con i quali molto suoneranno tosti. Due ragazzi di Verdena. Insomma, un bel concerto. E il tutto, tra l'altro, gratis. Ah, perfetto. Perciò, insomma, credo assolutamente che più una puntata da perdere. Non posso dire. Certo. Veniate. Veniate, benissimo. Per ora i Vindicators hanno un semplice Facebook. Dove potete mettere i vostri mi piace. E il disco è distribuito da Audioglobe ed etichetta Go Down Records, distribuzione Audioglobe. Lo potete trovare nel sito della Go Down Records assieme a tantissimi altri dischi molto interessanti, o nei negozi distribuito dall'Audioglobe, però i negozi sono sempre meno. Io vi consiglio di prenderlo direttamente sul perché sito. Se uno lo vuole fisicamente lo può richiedere direttamente. Esatto, tra l'altro vi ricordo è un CD doppio con un live al modico prezzo, credo sia 12 euro, quindi veramente un ottimo prezzo, ve lo tirano dietro. Quindi un disco dal vivo e un disco con pezzi tratti dai dischi, dei primi dischi vostri, più unici due dischi, più degli inediti. 4-5 inediti, sì. Tutto una compilation che hai fatto te praticamente. Yes. È stato un lavoro difficile? È stato un lavoro che a me piace molto fare, devo dirlo proprio, essendo anche un collezionista, poi queste cosettine qua di fare le scalette, gli editing, le copertine, tutto il resto è una cosa che mi piace molto fare. L'altra band è stata d'accordo sulla tua scelta dei pezzi? Il resto della band non so neanche se ha il CD, anzi Stefano proprio l'altro giorno, che infatti lo è qui presente, molto non è qui presente, è da un'altra parte. È un'altra parte. gli avevo consigliato, siccome dovete sapere che poi lui è un noto musicista che suona con Giorgio Canali, con i Radio Fiera, gli avevo consigliato di portarsi un CD dei Vindicators da dare a qualcuno e lui mi ha detto non credo di averlo, ed in effetti non ce l'aveva, non ce l'ho, perciò non diciamo che non c'è stato un grande interesse da parte della band. Quindi non c'è stato un grande interesse, però c'è stata una grande soddisfazione da parte tua, dalla assolutamente. Non mi danno tutto, mai soddisfazione. Ha fatto tutto lui, perciò va bene così. Esatto. Sono tra l'invidia e l'insoddisfazione loro. Da nuova entrata, da ultima entrata. Beppe, ecco Beppe. Che scusa, è la persona più obiettiva per giudicare. Dimmi Beppe. Posso dire una cosa? Io non ho molto tempo nella vita da perdere. No. Però quando mi hanno proposto di suonare con i Vindicators ho detto di sì per una questione abbastanza ovvia per me, però non tanto ovvia per chi non è dentro al giro. Sono stati un gruppo molto importante per la zona bassanese nella fine degli anni 80. Noi ragazzini della fine degli anni 80 vedevamo questo gruppo che era l'unica realtà bassanese che usciva dalla circondaria cittadina. Esattamente. Quindi è una cosa storica che va conservata in un certo senso e va rinnovata. Certo. In più, dai due concerti che abbiamo fatto, qualche anno che ho fatto con loro, mi sono accorto che la gente, anche chi non li aveva mai sentiti prima, neanche lontanamente, è rimasta coinvolta dal fatto di sentire un gruppo che suona dal vivo in questo modo qua, che propone questa musica che non fa più nessuno, certo, che ha questa carica nonostante gli anni non siano più 20, ok, che ha tutto sommato ancora voglia di suonare, ancora energia da buttare via quando la maggior parte dei cinquantenni sono seduti davanti alla TV a guardare il calcio. Purtroppo, su Sky, sì. No? Ecco. Purtroppo è così. Allora queste cose qua la gente io e Marco. Certo. Però la gente se ne accorge di questa cosa qua, perché gliela trasmetti in qualche maniera e si fanno magari anche delle domande, dicono: io cosa sto facendo? E è bello vedere che tutto sommato, prendi mia sorella, sì, che non li aveva mai sentiti prima, è fantastica, entusiasta. Mia sorella suona, non è una fra l'altro, sì, una che è dentro il discorso musicale. Quindi, diciamo la verità, stiamo facendo un servizio sociale vero e proprio, sì, d'accordo, perciò veniteci incontro. Siamo una onlus. Benissimo, abbiamo finito questa cavalcata con i Vindicators. Grazie Vindicators, grazie a Marco Borgato in regia. Domani ci sarà un'altra puntata di Rockaway Blu Radio Sera, stavolta con Agostino Spolaore, e la sua è una musicista, si chiama Francesca Romana Perrotta, verrà a proporre un live. Ci salutate con cosa? Con un flash musicale di grande valore, di grande propulsione? 69? Abbiamo no, possiamo andare esattamente possiamo andare oltre mezzanotte 2, mezzanotte 3 al massimo. Fate quello che volete. Facciamoli entrambi. Però spiega Carlo, vai, spiega un secondo, spiega. Carlo. Spiega. No, spiego che questo è un pezzo che noi con va bene. Col quale concludiamo tutti i concerti ed è un pezzo che almeno io amo molto. Mi ricorda gli anni 70, mi ricorda Il Cacciatore, mi ricorda De Niro, mi ricorda le musiche, come dire, un po' pompose, che però di sostanza c'erano. Si chiama Can't Take My Eyes Off You, è un pezzo che quasi abbiamo inserito nel primo disco quasi ironicamente, e poi ai concerti è il pezzo, come dire, di chiusura, che un po' trascina un po' tutti. Perciò abbiamo deciso di farlo. Grazie e buonanotte a tutti. No. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. And if you sigh, let me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, let me know that it's real. You're just too good to be true. So can't take my eyes off you. Now that I found this day, and let me love you, baby. Let me love you. Oh, oh, when I say stop walking, alone. Thank you, baby. Thank you, night. Come on, baby. The 69. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Come on, hey. Rhythm now. walking. I'm alone. Thank you, baby. Thank you now. Come on, baby. 69. Good night. Buonanotte. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañeros.